sembra una statua, sembra una statua, ma va per ridere, suore tremor. Suor da Lombardolo, guarda Don Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, la data da ridere, sole il tremor. Guarda Don Bartolo, al ridere sto per crepar, per crepar, dal ridere sto per crepar. Thank you.